24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Siamo qui alle 6:33 minuti puntuali, anche oggi in diretta fino alle 9 ed è venerdì, e quindi saluto anche Miriam Lucchetti che partirà, andrà per i suoi weekend insieme all'Alpino, no, non insieme all'Alpino, saluto anche l'Alpino, Peter Bescapè in regia, non lo so se partiranno insieme, non mi interessa e non voglio neanche saperlo. Intanto noi siamo qui come sempre, ricordatevi anche il venerdì, l'imperativo è il solito. But please relax. E allora siamo qua col nostro bar che può aprire, la nostra saracinesca e la nostra Nicole. Un caffè, se vuoi. Il caffè volentieri a tutti quanti. Che offre il caffè a tutti quanti, anche a Matteo Salvini. Buongiorno. Buongiorno, evviva. Sì, evviva. Evviva, perché secondo me sa già, dopo che faccio sentire tra poco quello che faccio sentire, dice un po' meno evviva Matteo Salvini. Mario Adinolfi, buongiorno e ben svegliato. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Allora, oggi non potevo che partire così, era scontato, e quindi ugole pulite. Salvini, schiarire bene la voce, perché tra poco avremo una bella performance canora. Anche Adinolfi secondo me è pronto. Vado facile, insomma. Facile. Salvini, è pronto? Io sto per cantare Mia bella Madonnina. No, ma come Mia bella Madonnina? Forza! Ma adatto a queste note. Fratelli d'Italia, Italia, sendetta dell'elmo di Scipio, se cita la testa. Dove la vittoria? Sembra la voce di Mario Adinolfi. Salvini, io non è che lo sento tantissimo. Dai, Salvini! Chiava di Roma, Dio creo. Parabon, parabon. Niente, Salvini, niente. Cantentrice lontana Napoli, se merma, poi venia in chiami da un po'. Ah, boom boom, ecco, meno male. Vabbè, Salvini, niente, che dobbiamo fare? C'è l'inno di Mameli nelle scuole. Ah, io rispetto per tutto. L'unico interrogativo è: in un momento economico come questo, se l'urgenza del paese era di avere l'inno obbligatorio per legge nelle scuole? Sì. B, se un paese dopo 150 anni dall'unità sente la necessità di imporre per legge ai bimbi di 6 anni l'inno obbligatorio in tutte le scuole tutte le mattine, che è un quei cos che va no, perché l'inno o è spontaneo o non è spontaneo. Detto questo, evviva i giovani Balilla. Sì, addirittura, comunque tradotto... Lo dice l'inno ecco, che sono i Balilla. Comunque tradotto anche per gli agrigentini, meglio, com'è che ha detto in milanese? Again, qualcosa che va no, cioè c'è un qualcosa che va. Qualcosa che va no, c'è qualcosa che non va. Se dopo ecco, Salvini, Salvini le abbia messa, La canzone, la nasa Napoli, e certamente... Sorriendo Margellina a tutti i popoli, ora cantarmi non c'è molto. Mi speri che si offenderà. Qui a Adinolfi mi sa che è un po' Mario, un po' in difficoltà. Ma non lo so proprio, se non volevo cantare, non la so proprio. No, infatti, vabbè, ho Mia bella Madonnina, però il ritornello adesso c'è. Comunque, vabbè, no, ma adesso arriva. Ecco, eccolo Salvini. Ti adora e Cicinina. Ma poi Radio 24 è a Milano. Sì, sì, no, Radio 24 è a Milano. Abbiamo anche la sede a Roma. E adesso Radio 24 è nazionale. Va bene, è italiana. Ma sì, che imporlo per legge, non lo so. Vabbè, Adinolfi, questa cosa di imporlo per legge effettivamente lascia perplesso un po' anche me. Non era certo la priorità, però è stato deciso così. Ma, secondo me non fa male insegnare l'inno. Insomma, non è nulla di grave. Io quando andavo a scuola mi insegnarono l'inno e fui ben orgoglioso e felice di cantarlo. Insomma, che la legge spieghi che bisogna insegnare l'inno di Mameli ai ragazzini italiani non mi sembra una cosa incredibile e scandalosa. No, ma scandaloso. Non vedo nulla di clamoroso. Di scandali. Io ho proposto che venga diffuso anche tutte le mattine all'ingresso delle sedi delle agenzie delle entrate di Equitalia, perché l'Italia è anche quello. Comunque, viene la filo diffusione ovunque. L'inno di Mameli ovunque. Nei rifugi alpini, negli ospedali, ovunque. Vabbè. Però c'è da dire a Adinolfi, mi sa che questi leghisti adesso si inventeranno qualcosa, no? Adesso ci sarà qualcuno che ostacolerà l'inno, qualche preside leghista che non lo farà, che si ribellerà. Sono un po' più rimbaccati quest'ultima fase, devono preoccuparsi di far risalire la Lega, credo, con qualche carnevalata in meno e qualche proposta politica seria in più, anche perché hanno un banco di prova importantissimo in Lombardia. Immagino che Matteo, insomma, sia più concentrato su questo, dove insomma la faranno fatica, secondo me, se l'obiettivo è portare il loro segretario federale, non credo che si dice così, insomma, il loro leader alla presidenza della regione Lombardia. Maroni. Sì, no, Salvini, non è che farete qualche azione, non se ne vedono più, siete più concentrati adesso, forse si può dire, a fare cose un po' più serie di politica concreta. La struttura di tutti i siti era che c'è il rischio riscaldamento nelle aule scolastiche. Sì. Secondo lei io faccio casino per l'inno o per il riscaldamento? No, infatti è bello perché infatti mettono l'inno, ma forse ci tolgono i caloriferi ai bambini, perché le province si sono inventate questo ricatto abbastanza vergognoso, diciamolo francamente. Tra l'altro alle 9 Oscar Giannino va al presidente dell'UPI, dell'Unione delle Province. Cos'è, Salvini, questo? Un ricattone vergognoso? Ma non so, io so che il presidente delle province del PD minaccia di togliere il riscaldamento per un provvedimento votato dal PD, quindi io so che il presidente delle province che conosco io in Lombardia, Sondrio, Brescia, Bergamo, stanno combattendo, ma con altri modi e perché altre sono le preoccupazioni, perché ad esempio se chiudono gli uffici territoriali provinciali, gli uffici scolastici, le questure, i cittadini per fare il passaporto invece di andare a Varese andranno a Como, andranno a Lecco, andranno non si capisce dove. Però detto questo, sì, secondo me è un provvedimento che fa risparmiare, se fa risparmiare 40 milioni di euro, e rischia di incasinarne altrettanti per cambiare tutti i codici anagrafici, tutti gli albi, tutti gli elenchi. Cioè l'accorpamento delle province. Infatti andavano eliminate tutte. Cambiamo i bambini, punto e basta. Poi infatti, secondo me andavano eliminate tutte. Comunque, secondo me potrebbe essere una scelta, togli il riscaldamento, però li fai cantare per la prima mezz'ora a scuola, quindi almeno si scaldano da soli. L'inno di Mameli, ovviamente. Su questo io vi vorrei far parlare un attimo di Silvio Berlusconi. Maria Adinolfi, hai visto ieri c'è stato uno psicodramma all'interno cioè addirittura con Alfano che gli ha detto basta barzellettieri o gelatai, forse ce l'aveva quando si è fatto il nome dell'imprenditore che ha fondato Grom, no? È uno dei gelati più buoni al mondo, tra l'altro, diciamolo francamente. Però poi Berlusconi si è presentato con Alfano in conferenza stampa e tutto amore d'accordo, sentite. Per quanto riguarda anche il signor Berlusconi, c'è stata una dichiarazione direi di amore assoluto, un attaccamento a me, alla mia e alla nostra storia, al segretario Angelino Alfano, e anche in questa occasione mi permetto di ricordare che tra me e Angelino c'è una totale condivisione delle decisioni e delle posizioni. Ci vogliono qualche volta mettere l'uno in dissenso dall'altro, non è mai successo, posso dire in maniera tranquilla ed esplicita che io voglio bene ad Angelino, che ha lavorato per tantissimi anni con me come un figlio, e sono sicuro di essere ricambiatissimo. Ecco, a questo punto, Maria Adinolfi, bisognerebbe far vedere in radio la faccia di Angelino Alfano in questo momento. Quando Berlusconi ha detto gli voglio bene come un figlio e sono sicuro di essere ricambiatissimo, dovevi vedere il fico del bigoncio in quel momento, la faccia. Diceva tutto, ecco. Vabbè, tutto d'amore d'accordo, quindi il PDL tutto a posto. Impressionanti queste convulsioni del PDL, ma al di là di tutto non parlo neanche da esponente politico, sono viene da italiano, guardare come la destra italiana stia avendo queste veramente convulsioni finali di una storia shakespeariana, cioè la narrazione della perdita del potere qui diventa incredibile, con un contorcimento che mi sembra spinga il PDL o quello che sarà intorno a percentuali a una cifra sola. È qualcosa di davvero, sono incredulo, perché gestire così male una crisi, e nel PD ne abbiamo avute moltissime, momenti di estrema difficoltà, ma poi c'è cioè un minimo di saldezza nella riflessione, nel sapersi anche proporre, figuriamoci se non litighiamo, noi siamo specialisti nelle litigate, però insomma poi esce fuori un po' di spirito, sì. Un po' di politica, un po' di proposta, qui invece siamo proprio nella convulsione delle classi dirigenti che non ci sono. Sì, ma attenzione. Quando c'è l'uomo solo al comando che si inventa un segretario così, purtroppo poi è difficile trovare la forza della legittimazione. Sì, ma attenzione che non è finita. Oggi il giornale titola così: Berlusconi prepara il colpo di scena, tutti sono certi, e quelli più vicini a lui. Il dinosauro dal cilindro. È il dinosauro dal cilindro. Sentiamolo, il dinosauro dal cilindro che tira fuori Berlusconi. No, il coniglio, il dinosauro. Le primarie sono uno strumento, come ho detto, per individuare il migliore tra noi, per essere candidato alla guida del governo futuro. Lo shock è un'altra cosa, e siccome mi attribuiscono la capacità di togliere un coniglio dal cappello quando è venuto il momento, questa volta penso di togliere un dinosauro. Il dinosauro, Salvini, che sarà mai questo dinosauro dal cappello che c'ha Berlusconi e ci ha tenuto nascosto finora? Ma non vorrei che fosse l'arma segreta nel bunker di Berlino. Detto questo, io registro da segretario della Lega in Lombardia che molti eletti, molti esponenti, molti elettori del PDL, di centrodestra per bene, molti amministratori locali stanno guardando con interesse alla candidatura di Maroni e stanno cercando un dialogo che con le persone per bene non mancherà sicuramente. Poi a livello nazionale si capisce poco, quindi quando capisco poco evito di commentare. No, perché l'arma segreta nel bunker di Berlino poi ha fatto una autofine un po' brutta con quell'arma segreta. Occorre... La Lega, con tutto quello che ha passato nell'anno scorso, sì, se non avesse avuto delle radici sarebbe scomparsa, un po' come rischia di fare l'Italia dei Valori di Di Pietro. Se invece con fatica e con lavoro esisti sul territorio, hai le sedie, hai i volontari, sì, hai l'idea, sì, puoi resistere anche alle bufere, anzi le bufere possono farti bene perché togli quello che era in di più. Io temo che il PDL, non avendo mai coltivato più di tanto, se non in televisione, se non quando amministrava le radici, si scomporrà in due o tre soggetti diversi. È sempre stato un partito molto personale, no? Un partito Berlusconi. Quindi... e soprattutto dicendo Formigoni in Lombardia, ormai ci sono 5, 6, 7, 8 esternazioni quotidiane che gli stessi suoi elettori o gli stessi suoi compagni ex di partito non capiscono, quindi diciamo che come Lega siamo pronti ad accogliere la parte ragionevole di del Ecco, comunque sono un po' finiti i tempi dei partiti personali, lo è stato appunto anche Di Pietro, Berlusconi, anche un po' la Lega di Bossi, cosa che non è più così. Come si fa a spendere 1.000 euro di telefono al mese con tutte le belle promozioni che ci sono? Glielo chieda la prossima volta che sente il presidente o quello che è della regione Sicilia. Sono tutti uguali e questo a me dispiace molto. Alessandro, buongiorno, sono Pietro. Volevo lasciare un messaggio alla ministra Elsa Fornero complimentandomi con lei per il suo lavoro. Ai giornalisti che non sanno che cosa scrivere e si attaccano a qualsiasi parola che lei dice, di andare a lavorare nei campi. Loro devono andare a lavorare nei campi. Nome, uomo, cognome, Grilliens, nazionalità, indefinita, altezza, bassa, segni particolari, evanescente. Ma sarà il caso che questo movimento di Grillo, che non vuole andare in TV e dalle regole, se ne parli sempre un pochino di meno? Ciao. Ma credo che il problema della Fornero, siccome dice le cose, non tanto quello che dice. E sembra uno stoccafisso esattamente come il suo capo. Ma chi ci tira fuori da questa situazione? Io vorrei conoscerlo. Chi caccia via in maniera definitiva questi quattro politici corrotti? Anzi, tutti corrotti, no quattro. Tutti corrotti, Maria Di Nolfi, è sempre così, c'è sempre questo disfattismo. Siamo con Maria Di Nolfi e Matteo Salvini, tutti corrotti, ci chiamano così a dire tutti, no? C'è una sfiducia che manco vi immaginate nella politica, in voi politici. Sì, colpa nostra, ma anche diciamo una grande opportunità per spiegare attraverso gli strumenti. Abbiamo adesso una stagione clamorosa, in 4 mesi e mezzo accadrà di tutto e tutti avranno le loro occasioni per dire quello che vogliono, perché avremo le primarie del PD, le primarie del PDL, forse primarie a livello locale, elezioni regionali, elezioni comunali qui a Roma, elezioni politiche nazionali, insomma ci saranno tantissime occasioni per i cittadini per farsi sentire, perché poi il riscatto della democrazia è nel voto. Ma la gente, ho paura che non, cioè sono discorsi giusti, validi, ma che raggiungono una minoranza del paese, cioè la maggioranza, ma sbagliando probabilmente, non ne può più, proprio non lo so. Ma non lo so, io se alle primarie del PD vedrò milioni di persone in fila a scegliersi il candidato premier, dirò che è una giornata di festa per la democrazia, e forse qualcuno si convincerà che fare battaglia politica poi serve a qualcosa. Io penso che quando Salvini fa le sue iniziative per la Lega in Lombardia, sente del popolo vicino, ci saranno delle elezioni importanti con tre nomi secondo me di grandissima caratura, perché Ambrosoli, Albertini, Maroni saranno a un confronto in Lombardia di estremo interesse, la gente andrà a votare o no? Secondo me non sarà come in Sicilia, noi stiamo per vivere una stagione in cui la politica e la democrazia torneranno a appassionare gli italiani. Questi mesi che abbiamo davanti, non voglio fare il disfattista io, subisco il clima di oggi, ma sì, sono convinto sì. Che un rinnovamento sia dietro l'angolo e possiamo rappresentarlo. Io e Matteo apparteniamo a una generazione di politici che non sono quelli, diciamo così, di 20 o 30 anni fa. Forse riusciremo a far appassionare i cittadini alla politica. Chissà, Matteo Salvini, lo senti questa passione che in realtà cova un po' sotto le ceneri del disfattismo totale, perché a volte magari urlare via tutti i corrotti è anche più facile, no? Uno prende il telefono, chiama e dice forconi, li caccerai tutti ladri, tutti farabutti, ma in realtà cosa rappresenta questo percentualmente della popolazione? Tanto o poco? C'è ancora passione per la politica? Reazione comprensibile, visto che uno apre il giornale, sembra il bollettino, oggi chi ha rubato, oggi che hanno arrestato, oggi chi si è sciolto, occorre l'esempio quotidiano, la fatica e l'ascolto che c'è quando si risolvono problemi concreti, le case popolari, l'ospedale, la scuola materna, la casa per i genitori separati, quella è la politica. Io vedo che c'è un buon riscontro, almeno in Lombardia, nell'esperienza che vivo io stasera vado a inaugurare una nuova sede aperta dai militanti a Volta Mantovana e domani una all'Andriano e una a Pregnana Milanese. Se ci sono migliaia di persone che hanno voglia di dedicare gratuitamente il proprio tempo a un'idea politica, io sono convinto che la buona politica spazzerà via la cattiva politica, anche perché dico al signore che vi ha telefonato dicendo tutti i corrotti, lui però un sindaco ce l'avrà che decide per la sua città, un consigliere comunale, un consigliere regionale, un europarlamentare. Magari occorre fare un po' più di fatica e documentarsi di che cosa fa Matteo Salvini a Bruxelles, di che cosa fa il suo sindaco, di che cosa fa il consigliere che ha eletto, ma io sono ottimista, capisco la reazione di chi dice vaffanculo, però il vaffanculo non costruisce, quindi occorre dire vaffanculo, ma poi dopo la regione Lombardia ha bisogno di treni che arrivino e di ospedali che aprano. No, ma forse non lo so, è anche colpa, Mario, è anche colpa dei giornali, un po' di noi giornalisti, anche tu. No, questa cosa non la dirò mai, l'indignazione popolare ha delle ragioni fondate, io lo dico sempre con chiarezza, la risposta però è nel dire, quando ci dicono siete tutti uguali, proporre l'esempio è dare strumenti per far partecipare e decidere le persone che hanno voglia attraverso la partecipazione democratica. È l'unica strada che abbiamo. Io sono più sfortunato di Matteo, non ho un territorio così ristretto. Adesso mi farò un'iniziativa domani a Forlì, un'altra a Savignano sul Rubicone. Ma dov'è Savignano sul Rubicone? Ma che ne so, ma lo sai solo tu. Manco il navigatore lo prende com'è Savignano. Mi invitano in giro per l'Italia, dappertutto. Varca per Rubicone ad Inolfi. Per dire attenzione, sono qui, sono testimonio la volontà di farmi magari 600 km in un giorno, ma per dire magari a 100 persone che la politica c'è ed è sempre appassionante. Ma a nuoto? L'indignazione come Grillo? Il Rubicone mi sembra pure più ristretto, si potrebbe pure fare. Vabbè, io vi ringrazio, mi fermo qui. Mario Adinolfi e Matteo Salvini. Mario Adinolfi è deputato del PD, Matteo Salvini segretario della Lega in Lombardia, ero deputato della Lega. Dicevo a tutti gli italiani quanto abbiamo realizzato i nostri governi, che noi riteniamo siano stati i migliori della storia della Repubblica. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. È venerdì 9 novembre, intanto i titoli, Il Sole 24 Ore apre sull'auto, piano di rilancio dell'auto, l'Unione Europea punta sui fondi BEI, questo è il titolo. Il Corriere della Sera e molti giornali invece puntano sulla resa dei conti del PDL, questo è il titolo del Corriere, la resa dei conti nel PDL. Per Repubblica, caos nel PDL, Berlusconi sconfitto, La Stampa, il PDL si ribella a Berlusconi, Il Giornale, Berlusconi Alfano, la verità. Il Messaggero, Alfano sfida Berlusconi, Il Libero, il popolino della libertà. Mentre il Fatto Quotidiano apre con un'intervista a Renzi, basta con Monti ma anche con Bersani. Il Manifesto invece, la guardia al mercato, ed è l'apertura del congresso in Cina, il 18° congresso del Partito Comunista Cinese. L'Unità, Alfano tira fuori il quid. Anche Avvenire, andante moderato, prova di forza nel PDL. Mentre Pubblico apre su questo titolo, così sta nascendo il Polo G, e il Polo G è Beppe Grillo, Antonio Ingroia, Marco Travaglio, questo secondo il giornale diretto da Luca Telese. Allora, io però voglio partire subito con questa storia delle province. Alle 9 ci sarà il presidente dell'UPI, l'Unione delle Province Italiane, il neo presidente da qualche giorno, è Antonio Saitta, il presidente della provincia di Torino. E che cos'è questo delle province che dicono via i tagli del governo, oppure dovremo chiudere le scuole prima perché non ci sono i soldi per il riscaldamento delle scuole dei bambini? Un ricattone? Per molti sì. Via i tagli o scuole chiuse. Così titola pagina 7 Il Sole 24 Ore. Le province minacciano. Stop al riscaldamento. Racconta Eugenio Bruno a pagina 7 del Sole, per convincere il governo a rivedere la stretta sui bilanci, le province provano a giocarsi la carta scuola, minacciando la sospensione del servizio di riscaldamento e di conseguenza la chiusura anticipata degli istituti per le vacanze di Natale. Allora, che cos'è un ricattone? Il presidente Saitta, i titoli sono tutti questi, della Stampa, anche le province, spegneremo il riscaldamento nelle scuole. Dice Saitta, intervistato da Repubblica, non è un ricatto, intervistato da Annalisa Cuzzocrea, pagina 6. Eccolo qui, spieghiamo al governo da mesi questo, il taglio di 500 milioni non è praticabile, i comuni hanno una spesa corrente di 26 miliardi, le province di 4 e dobbiamo tutti risparmiare 500 milioni, è impossibile. Per evitare il dissesto finanziario dovremo tagliare tutte le spese, tra le spese c'è il riscaldamento, comprimeremo tutto. Al che Repubblica chiede, speravamo fosse una provocazione la vostra. No, abbiamo colto questa occasione per spiegare al ministro che noi abbiamo competenza sulle scuole e che negli ultimi anni non ci è stata data una lira per l'edilizia scolastica. Il procuratore Guariniello ha lanciato un allarme sicurezza che il governo non ha ascoltato. Insomma, siamo stati costretti ad alzare i toni per farci rispettare. Ecco, alzare i toni o ricatto abbastanza vergognoso, comunque la pensiate. Il ministro Patroni Griffi, colui che è uno degli artefici dell'accorpamento delle province, rilascia un'intervista al Messaggero, intervistato da Claudio Marincola. L'intervista la trovate a pagina 7 del Messaggero. Il titolo è questo, di Patroni Griffi: colpiscono i ragazzi per difendere le loro poltrone. La questione delle riduzioni di spesa è diversa da quella del riordino, dice il ministro. Sicuramente risparmi di spesa, revisione degli apparati vanno insieme, avremo certamente riduzione in termini di beni e servizi, risparmi sull'uso degli immobili. Riguardo alle sedi, quando ci sarà l'accorpamento, che fine faranno? Beh, quelle in affitto si potranno dismettere subito. I dipendenti, si porrà un problema di spostamenti tra uffici, non prima di un anno comunque. Ma riguardo alla minaccia, chiuderemo il riscaldamento nelle scuole, dice Patroni Griffi, Saitta, sia da vicepresidente dell'UPI, sia da presidente della provincia di Torino, era stato collaborativo, aveva seguito da vicino il riordino. L'ho invitato a non usare espressioni che non possiamo meritare o accettare. Abbiamo una linea chiara, un nuovo sistema di governance fondato su funzioni indirette, sulle dimensioni indicate nel riordino, demonizzare questa linea non serve a nessuno. Poi racconta Patrone Griffi nell'intervista delle pressioni subite di questi tempi da tutti i parlamentari. Beh, dice Patrone Griffi, guardi, posso dire che tutte le volte che mi avvicinavo a un parlamentare mi chiedevo quale fosse la sua provincia di origine. Le pressioni ci sono state e c'erano state anche per i tribunali. E riguardo alle raccomandazioni, l'ultima domanda, più raccomandazioni dal sud o dal nord sono arrivate? Sotto certi aspetti l'Italia è un paese molto più uniforme di quanto si pensi. Così dice il ministro Patroni Griffi, parlando di quello che è un sembra proprio un ricattone. Anche il ministro Profumo, ministro dell'istruzione, intervistato da Corrado Zunino su Repubblica, pagina 7, parla di altri temi, ma a proposito di questa vicenda delle scuole, affronteremo la questione al più presto, ma dobbiamo farlo con serenità su un piano programmatico sul tema scuola. Dobbiamo valutare lo stato generale e far sì che il sistema scolastico trovi un nuovo equilibrio di qualità. Insomma, una risposta molto diplomatica sulla questione della minaccia via riscaldamento dalle scuole dei ragazzi. Le province dicono così. Ne parla Oscar Giannino alle 9. Ora voglio parlare di Juventus, così mi ricoprirete ancora di insulti. Ringrazio tutti quelli che mi scrivono e mi amano profondamente per la mia fede juventina incrollabile. Il titolo è di prima pagina del Secolo XIX, Juve, pallone e mattone. È una vicenda che racconta Francesco Bonazzi, che riguarda il comune di Torino. La giunta di Torino concede l'area accanto allo stadio a prezzi di saldo. Lunedì scorso Piero Fassino gliela cantate chiare: non possiamo continuare a dare letture ideologiche su quel che accade alla Fiat. Il sindaco di Torino si rivolgeva ai delegati FIOM che lo stavano contestando. Nelle stesse ore però la sua giunta di centrosinistra anticipava Babbo Natale e portava in consiglio comunale una delibera che raddoppia la cubatura concessa alla Juventus intorno al suo nuovo stadio senza ritoccare neppure di un centesimo il valore dell'area. E così, dopo aver comprato a peso d'oro milioni di metri quadri di fabbriche dismesse, Torino rischia di sperimentare su di sé l'ultima mutazione Fiat, da colosso industriale a campione dello sviluppo immobiliare. Per sostituire l'approccio ideologico paventato da Fassino con quello meramente merceologico, diciamo che in città si passa dall'automobile al mattone. E ancora continua all'interno l'inchiesta di Francesco Bonazzi, un'intera pagina, pagina 11, il titolo è «La Juve si allarga con il regalo del comune». Questa è la vicenda. Torna al nuovo stadio tra i comuni di Torino e Venaria. La Juventus vuole costruire il proprio quartier generale, non solo la sede sociale ma anche i centri per gli allenamenti, un cinema multisala, un centro benessere, appartamenti di buon livello. Accordi di luglio che prevedevano che avrebbe sborsato 10 milioni e mezzo di euro per 150.000 metri quadrati di superficie, ma adesso, in base alla nuova convenzione pattuita con la giunta Fassino, la quota residenziale passerebbe da 6 a 12.000 metri quadri senza che il prezzo venga ritoccato di un centesimo. Ecco allora il titolo: la giunta dà l'ok al raddoppio dell'area di fianco allo stadio a prezzi di saldo 0,58 euro a metro quadro. Questo è il regalo, secondo il Secolo XIX, del comune di Torino alla società Juventus. Un po' di economia e anche il lavoro in primo piano in due articoli che mi hanno colpito. Il primo è l'iter della legge di stabilità, dove si cerca di trovare un accordo alla Camera. Manovra, tensioni, PDL, PD sul taglio del cuneo fiscale, questo è il titolo che trovate a pagina 5. Marco Rogari sul Sole 24 Ore racconta come stia salendo la tensione in questo tentativo di restyling sulla legge di stabilità, una maggioranza che ancora non riesce a trovare alcuna quadratura del cerchio sulla calibratura delle risorse provenienti dalla rinuncia al mini taglio dell'IRPEF da destinare alla riduzione del cuneo fiscale. L'accordo è totale sulla necessità di coinvolgere il tesoretto per il 2013, un miliardo, che potrebbe scendere in realtà a 6-700 milioni, sui redditi da lavoro dipendente e nuclei familiari. Dunque c'è l'accordo. La contesa resta aperta sulla utilizzazione invece della dote per il 2014 e per il 2015. Ci sono versioni diverse tra vari partiti. I due relatori sono Renato Brunetta, il Popolo della Libertà, e Paolo Baretta, il Partito Democratico. e oggi il ministro Grilli è atteso da un intervento ufficiale in commissione bilancio per cercare di trovare in questa sorta di mini vertice una quadratura del cerchio su come appunto usare queste risorse per tagliare il cuneo fiscale. È insomma un iter un po' problematico di questa legge di stabilità. Mentre mi ha colpito anche un'idea che verrà concretizzata lunedì e che proviene dal ministro del lavoro Elsa Fornero. Ne parla a pagina 9 del Corriere della Sera Dario Di Vico. Uno spot d'immagine per l'apprendistato, questo è il titolo, è l'idea del ministro Fornero, faremo un accordo con la Germania per rilanciare appunto questa tipologia, l'apprendistato. Ha raccontato, tra l'altro, il ministro Fornero, racconta Dario Di Vico, che l'idea le è venuta di notte. E il ministro Elsa Fornero ha subito scritto una lunga mail al suo direttore della comunicazione con un leitmotiv del messaggio: l'apprendistato deve diventare anche in Italia la via tipica per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Ma ci sono problemi di comprensione e dialogo. Non è l'ennesima forma di flessibilità poco costosa, sostiene il ministro. Per le famiglie e i giovani, però, apprendista è una parola che sa di vecchio, poco qualificante, del resto basta consultare il dizionario per constatare come sia considerato sinonimo di garzone. Per rovesciare invece quest'immagine, Fornero, ecco questa l'idea, vuole lanciare spot televisivi di pubblicità progresso che spieghino al paese due concetti. Il primo, in una stagione di bassa occupazione sarebbe un delitto perdere questa occasione. E in secondo luogo, l'apprendistato è collegato alla formazione e porta nella maggioranza dei casi alla stabilizzazione del posto di lavoro dopo 3 anni. Per questo ci sarà anche un accordo che verrà firmato a Napoli lunedì con l'omologo tedesco Ursula von der Leyen, che sarà appunto a Napoli per firmare questo accordo che prevede come partenza lo scambio di giovani tra i due paesi per rilanciare l'apprendistato. È la prima volta che la Germania ci chiede qualcosa che non sia rigore e ho detto subito di sì. Questa è la frase del ministro Fornero. Dunque faremo un accordo con la Germania, l'idea è fare degli spot televisivi per rilanciare l'apprendistato come via per stabilizzazione di molti giovani, soprattutto in un momento in cui non si può essere molto chiusi, per usare una parola del ministro Fornero, e in cui il lavoro non c'è tantissimo. Poi veniamo alla politica. La politica è dominata da quello che tutti i giornali hanno definito lo psicodramma che si è svolto ieri in una riunione molto tesa all'interno del Popolo della Libertà per capire come fare le primarie, se fare le primarie. Oggi è pieno di retroscena, di articoli. Poi c'è stata la conferenza Berlusconi-Alfano in cui Berlusconi ha detto voglio bene ad Alfano come se fosse un figlio mio e so di essere ricambiato al massimo. E lì abbiamo sentito anche l'audio. Insomma, c'era la faccia di Alfano che era un po' tirata. In realtà i resoconti dei giornali raccontano, di tutti i giornali, di un vero e proprio scontro avvenuto all'interno della direzione del Popolo della Libertà. Leggete per esempio il Corriere a pagina 2, scontro Berlusconi-Alfano, primarie, sì dopo le tensioni. Berlusconi che ha detto le primarie non sono salvifiche, servirebbe un Berlusconi del 94, al che Alfano si è molto adombrato. L'indecisionismo ci uccide, o si prende una decisione o saremo barzellettati. Qual è l'alternativa alle primarie? Inseguire qualche gelataio o qualche ex presidente di Confindustria che nei sondaggi fa peggio di noi? Finora un Berlusconi del 94 non è venuto fuori, allora scegliamolo tra di noi, a meno che non ci sia una scelta che riguarda personalmente Berlusconi sulla quale c'è la clausola di sempre. Cioè Alfano, tra l'altro, con questo ex presidente di Confindustria, si riferisca a Montezemolo. O a Emma Marcegaglia, no? Insomma, comunque è ex presidente di Confindustria, mentre il gelataio tutti mettono la foto di Guido Martinetti, quell'imprenditore che ha fondato la catena di gelati Grom e che a un certo punto era spuntato come ipotesi sondata da Berlusconi per capire può essere lui l'uomo nuovo. Sta di fatto che c'è stato questo scontro molto duro con anche Alfano che ha detto appunto verremo barzellettati, basta le barzellette, basta i gelatai. I retroscena raccontano proprio di questo, Sempre il Corriere della Sera, Paola Di Caro, alla fine di una giornata delirante, aperta e chiusa da un Berlusconi che prima attacca testa bassa ai suoi, rivelando che sarebbero stati bocciati da sondaggi, che nessuno sa davvero se esistono, poi esalta la sua classe dirigente, insomma sul campo restano poco più che macerie fumanti. C'è anche Galan che avrebbe detto: non mi piace un partito a trazione Agrigento Paternò, ci vuole un candidato del nord, al che Alfano si sarebbe molto arrabbiato. In retroscena però raccontano, per esempio il Giornale, del colpo di scena previsto da Berlusconi. Berlusconi starebbe preparando il colpo di scena, per la verità se lo si dice da tanto tempo, tanto che ha usato questa espressione: mi dicono che io so tirare sempre fuori il coniglio dal cilindro, questa volta tirerò fuori un dinosauro dal cilindro, che vabbè è un animale grosso, come vediamo, grande sorpresa, però dinosauro è anche un animale vecchio, è un po' vecchiotto, come dire, lievemente scomparso. Comunque Berlusconi prepara il colpo di scena, questo per il Giornale, e continuano ad aumentare le voci attorno a questo banchiere Giampiero Samori. L'ultimo sogno del cavaliere, secondo Fabrizio D'Esposito, sul Fatto Quotidiano ne fa un profilo a pagina 7, un profilo per la verità non molto positivo. Giampiero Samori, che fa due interviste, una Repubblica, una Libero. Quella a Libero, intervistato da Barbara Romano, a pagina 4, un'intera pagina, il banchiere Samori ci prova: io sono un Berlusconi mignon, un piccolo Berlusconi, sono un avvocato e mi sento anche bravo, una cattedra universitaria a Urbino, poi negli anni ho promosso una serie di iniziative che hanno avuto un discreto successo, mi piacerebbe correre per le primarie ma in questo momento sono agnostico perché non so neanche qual è il campo, scendo in campo non so qual è, stanno diventando un atto burocratico. E lo stesso Samori demolisce un po' le primarie, in questo sembra un po' berlusconiano. Ma scusi, lei ha capito, chiede lui alla giornalista, lei ha capito come funzionano queste primarie? Io non so neanche se sono candidabile. E poi cosa ho fatto fino a oggi? Mi sono dedicato alla promozione di una serie di iniziative economiche, non mi sono mai più occupato di politica. Ma mi ha dato la voglia di tornare in campo la caduta del governo Berlusconi. Ho sentito come una chiamata. Mi sono detto che era la volta in cui un moderato come me, che è stato più fortunato di altri nella vita, poteva dare il suo contributo. E allora, ecco la domanda: ma è lei il Berlusconi del 94 a cui pensa Berlusconi? Sono un Berlusconi mignon. In cosa voglio imitarlo? Il Berlusconi del 94 ha rappresentato un momento di forte discontinuità, e se io oggi, sulla base di un programma diverso, in un momento storico diverso, potessi contribuire a una nuova discontinuità, non mi spiacerebbe. La mia ricetta in pillole, l'opposto dell'agenda Monti che ha messo in ginocchio il ceto medio. Bisogna cambiare il passo, abbattere il debito pubblico, prendendo i soldi dove sono, vale a dire in Banca d'Italia, 250 miliardi di euro disponibili. La Banca d'Italia, riserve auree per 80 miliardi, altre risorse per 170 miliardi, soldi che non sono a garanzia di nulla e quindi acquisibili al patrimonio dello Stato con una legge ad hoc che non penalizzi Banca Italia. Beh, in questo sembra proprio di sentir parlare Berlusconi, che questa ricetta l'aveva già proposta. Alfano pare infuriato, eccolo qui lo sfogo di Angelino Alfano a cena ieri dopo la giornata psicodramma con lo scontro con Silvio Berlusconi, anche se poi negato pubblicamente. Se fa la lista con noi ha chiuso, cioè così parlerebbe Alfano di Berlusconi: se fa una sua lista con noi ha chiuso, perché per noi è soltanto una zavorra, occorre fare a meno di lui. Così Alfano avrebbe detto ai suoi fedelissimi. A chi pensa allora Berlusconi? A Giampiero Samori, questo banchiere? A Flavio Briatore, che di tanto in tanto spunta ancora sempre più? A Marina Berlusconi? Questo lancia per esempio l'Unità come idea. Non è che quando si riferiva al fatto ci vorrebbe un Berlusconi nel 94, in realtà Silvio Berlusconi volesse dire ci vorrebbe una Berlusconi, magari di nome Marina, cioè sua figlia. Sta di fatto che c'è anche del colore in tutta questa vicenda, lo racconta Mario Aiello con la solita qualità sul Messaggero a pagina 2, il mal d'Africa di Silvio. Io come Hemingway sono felice solo qui. Silvio Berlusconi pare che attraverso anche le parole del suo medico Zangrillo, che lo segue nelle sue frequenti puntatine a Malindi, al resort di Briatore, ha detto le parole di Berlusconi come Ernest Hemingway: non c'è mai stato un mattino in Africa in cui svegliandomi non mi sia sentito felice. e le provinciali, le primarie del PDL, da Cantù a Canicattì, su via. E la coabitazione con Angelino, meglio quella con Briatore a Lion in the Sun. Berlusconi soffre il mal d'Africa, così dice il Messaggero, con il suo medico Zangrillo che dice: ma non sminuite questa cosa, vi prego, non banalizzatela. Un Berlusconi che dice: voglio tornare presto in Africa, felice solo qui. Tanto che Mario Aiello è un po' sarcastico nel lanciare il possibile slogan di Berlusconi: Yes, we Kenya. C'è un altro partito che pare in pezzi, l'Italia dei Valori. Ieri due deputati se ne sono andati, Piero Donadi, Aniello Formisano, qualcuno ha detto se ne sono andati, le scorie, meglio liberarsi delle scorie. E beh, insomma, c'è un Red Azione mica male. Noi parleremo alle 8.15 con Pancio Pardi, senatore dell'Italia dei Valori. Intanto il governo pensa sulle liste pulite, così racconta Liana Milella su Repubblica, a fare un decreto legge. Monti punta al decreto sul tema dell'incandidabilità, sempre il termine dovrebbe essere quello dei 2 anni, via i condannati a più di 2 anni. E tutto pronto prima delle elezioni regionali di Lazio, Lombardia e Molise. Questa è l'agenda del governo Monti sull'aspetto incandidabilità, questa è la promessa. L'articolo lo trovate a pagina 12, si pensa a un decreto legge. Una proposta di legge invece arrivata, avete sentita sull'Inno di Mameli. Siete pronti, cari ascoltatori, a pensare che i vostri figli fin da ora debbano imparare l'Inno di Mameli, sia come testo, sia come musica, sia come motivo da cantare nelle scuole? È legge l'Inno di Mameli a scuola, per legge. La Lega insorge: non schiavi di Roma. Vabbè, c'è la solita interpretazione assolutamente, tra l'altro, sbagliata del testo, che schiava di Roma e Dio la creò. Ci sono le solite schermaglie. Non era certamente il provvedimento più urgente da approvare al Senato, però sta di fatto che l'Inno di Mameli è diventato legge per la scuola. Voglio chiudere con una storia dal Corriere della Sera che mi ha molto colpito. A pagina 27 la racconta Andrea Pasqualetto. Il titolo è: quei baby calciatori licenziati con una lettera. Succede che ad alcuni bambini di 8 anni il presidente di calcio di San Giovanni di Trieste, la squadra di molti bambini, ha mandato questa lettera. Per esempio a Paolino, 8 anni, prima volta che riceve una lettera in vita sua: con la presente ti ringrazio per aver fatto parte nella stagione sportiva 2011-2012 della nostra società. Purtroppo siamo costretti a comunicarti che per la prossima stagione non siamo in grado di darti la possibilità di continuare con noi la tua attività sportiva. Nell'augurarti le migliori fortune sportive, colgo l'occasione per porgerti i miei più cordiali saluti. Firmato Spartaco Ventura, presidente del calcio San Giovanni di Trieste. Ma come? A bambini di 8 anni? E così è arrivato a altri bambini. Con i genitori che ora dicono: è uscito il mio figlio disperato, si è chiuso 2 ore in camera. Ma come? A un bambino di 8 anni ci dispiace, una selezione così terribile, non puoi più far parte della nostra squadra, grazie, la nostra stagione sportiva l'anno prossimo per te è preclusa. E i genitori che dicono: i bambini l'hanno presa malissimo, quelli che hanno ricevuto questa lettera, si sono chiusi in camera, si sono disperati per ore. Ora il presidente dice: ma no, io l'ho fatto solo per una ragione non tecnica, non di bravura, non ho selezionato i più bravi, la mia scelta è stata dettata da un'esigenza: ridurre il numero dei piccoli calciatori per il fatto che non eravamo più in grado di seguirli tutti. Comunque una storia molto bella che racconta Andrea Pasqualetto sul Corriere, leggetela. Quei baby calciatori licenziati con una lettera: a bimbi di 8 anni non giocherete più con noi. Voglio salutare il senatore Pancio Pardi, buongiorno, dell'Italia dei Valori, benvenuto. Buongiorno. Allora, come si trova, per parlare ovviamente di un partito che sta affrontando un po' dei seri problemi, intanto lei come si sente in questo momento, come stato d'animo proprio, no? Riguardo alle ultime polemiche viste? Ma tutto sommato sollevato. Sollevato, e perché? Ma perché l'ultima riunione ha stabilito una cosa che bisognava fare in realtà da molto tempo, da molto molto prima che scoppiasse questo caso Report, e cioè avviare un profondo processo di rinnovamento con una azione più energica sulle strutture regionali, con una messa in chiaro con di tutte le faccende finanziarie dei gruppi sì. consiliari per evitare ripetersi di cose tipo quella del gruppo consigliare laziale, insomma, sì, sì. una chiarezza maggiore, mettere online i bilanci, adottare la massima trasparenza, eccetera. Ma ha notato che c'è una volontà di... Poi sì, c'è una volontà di rinnovamento. Abbiamo deciso sì. di fare questa grande assemblea straordinaria a dicembre per riprendere le fila di tutto questo ragionamento, perché diciamo in teoria bisognerebbe fare un congresso prima delle elezioni, è stato osservato da alcuni, dico ma perché non fate un congresso prima delle elezioni? Per fare un congresso è molto complicato, ci vuole tutta la verifica del tesseramento, fare i congressi regionali prima. Beh, quindi si fa prima a non farli, no? Si fa prima a non farlo, perché in realtà siamo per forza, ormai i tempi ci portano a farlo. Però sono i partiti per di plastica di poi, no? Per evitare di addormentarsi è stato deciso che si supplisce alla impossibilità del congresso con questa grande azione di sommovimento. Sommovimento. Però scusi, senatore, mi scusi, ma così non sono i partiti di plastica, cioè non si fa nessun congresso? No, il congresso era stato fatto a febbraio del 2010, era stato anche un congresso notevole in cui erano state anche prese delle decisioni con una mozione che era stata votata a grandissima maggioranza, che se fossero state adottate avrebbero anche impedito casi laziali, quindi sì. c'è un ravvedimento operoso su questo terreno. No, poi l'assemblea straordinaria, diciamo, è una maniera per supplire all'impossibilità di fare un congresso subito, però diciamo di mettere sul terreno le stesse intenzioni. Sì. Senta, ma che ne pensa? Poi c'è il progetto di un allargamento del gruppo dirigente per garantire un po' più trasparenza, una maggiore collegialità. Senta, ma che ne pensa di quelli che dicono, avete visto, anche l'Italia dei Valori è come tutti gli altri partiti, altro che Italia dei Valori, rubano come gli altri? Questa è un'obiezione, di fronte alla potenza televisiva, questa è un'obiezione che è realistico che venga formulata, però io devo osservare che i temi su cui Di Pietro è stato messo sotto accusa sono stati trattati in una maniera che a lui, penso, alla fine la cosa sarà molto chiara, perché le famose 56 case non sono 56 case ma sono 56 particelle, sì, sì. Quindi già quella è una differenza enorme. E le questioni della della opacità finanziaria già dal 2009 erano state risolte, e quindi è vero, semmai erano fino al 2009 c'era qualcosa che non andava. Però ha visto, ci sono esponenti del partito, non so, Donadi, Formisano, che hanno sbattuto la porta, hanno detto ce ne andiamo. Ecco, ora la questione di Donadi è questa, che se uno guarda bene quello che abbiamo deciso l'altro giorno, non io, ma un giornalista spiritoso potrebbe dire l'IDV adotta la linea Donadi e Donadi se ne va, perché nella riunione di ieri e anche nell'assemblea straordinaria sicuramente c'era la linea Donadi, un tentativo di riapertura con i rapporti. Perché se n'è andato allora? Perché se n'è andato? Per un urto che ha qualcosa anche di personale, perché Donadi aveva, però lo devo dire, perché non me l'ha fatto dire, si cerca di riaprire un serio rapporto col Partito Democratico, quindi era la cosa che lui voleva. E lui aveva chiesto dentro la riunione, anche con posizioni di stampa precedenti, che Di Pietro facesse un passo indietro di lato. Sì. E Di Pietro ha risposto, dico, le critiche le accetto tutte, si può ragionare su tutto, però in una situazione come questa non puoi chiedermi di fare un passo di lato, perché sembrerebbe che io allora davvero ho la coda di paglia. Allora, sul mio passo indietro aspettiamo, vediamo cosa succede al congresso, però... Però c'è una certa apertura. Senta, ma c'è anche chi mette insieme la crisi dell'Italia dei Valori contemporaneamente alla crisi di Berlusconi. Sono legate, secondo lei, queste due vicende? Questo me l'hanno chiesto. Perché insomma voi avete fatto molto, anche lei è sempre stato molto un anti-berlusconiano. È finito l'argomento Berlusconi. Perché non si sa più che fare. Non si sa più che fare. Avete perso tutto. Sì, no. L'obiezione è fondata anche questa, per carità, quando la stampa pone dei problemi uno deve pensare che i problemi non esistano, i problemi esistono. Indubbiamente il contrasto al governo Berlusconi ci ha dato anche una notevole visibilità, anche perché il Partito Democratico, l'opposizione a Berlusconi, la faceva in modo molto tiepido. Quindi noi eravamo gli alfieri di questa cosa. Finita questa cosa qui, è venuto fuori il governo Monti. Qui noi, dopo aver dato la fiducia all'inizio, abbiamo cominciato un'opera di opposizione. Io su questo ho il mio punto di vista, che è diverso da quello del partito. Noi non potevamo e non possiamo trattare il governo Monti come trattavamo quello Berlusconi. Invece il partito per un certo tempo l'ha trattato avuto una certa indulgenza verso male. Questo atteggiamento, perché in fondo era come sostituire Berlusconi con un'altra cosa, no? C'è anche da dire che il governo Monti ha avuto delle politiche di una iniquità veramente spaventosa. Sì, però l'argomento un po' Berlusconi vi è stato tolto da sotto i piedi, cioè siete un po'. Ma ha sentito che adesso va in Kenya, cioè al Mal d'Africa, titola. Sa su questo, però è vero, l'argomento Berlusconi ci... No, ma perché ride così? È vero, il Messaggero titola al Mal d'Africa, dice, dice non mi sono mai svegliato triste in questo paese, voglio tornare a Malindia al più presto, il suo medico Zangrillo ha detto non banalizzate questa cosa, si sente felice a Malindia. Io ho incontrato in Transatlantico l'altro giorno un parlamentare del PDL che ha detto... non c'è niente da fare, Berlusconi non c'è più. No, adesso mi deve dire il nome. No, questo non glielo posso dire. Se ha coraggio, se no io posso credere che è una butade, che è uno del PD. Non glielo posso dire perché è un deputato di cui non conosco nemmeno il nome. E allora come ha fatto a sapere che era del PD? Lo riconosce, era vestito d'azzurro. No, me l'hanno detto che era un deputato. E allora gli avranno detto anche il nome. Dai, ci dica il nome. Scoprire, poi. Ci dica il nome, senatore. No, aspetta, invece la questione non ce lo dice il nome. La questione del trovare una via, questa è vera. Noi bisogna. Sì. Ognuno qui ha le sue opinioni. Io, siccome ancora il partito non ha prodotto una, io penso questo, che sì, l'Italia dei Valori deve mantenere e rafforzare il suo carattere di democrazia costituzionale, di attuare quello che di buono c'è scritto nella Costituzione. Ma con Di Pietro sempre, Di Pietro, cioè dovrebbe effettivamente fare un passo indietro, ma non perché è Di Pietro, cioè perché i partiti personali dovrebbero cambiare, no? C'era la Lega di Bossi, c'è l'IDV di Di Pietro, il PDL di Berlusconi. I partiti personali devono cambiare, anche io su questo glielo potrei firmare. Devono cambiare. Noi cominciamo adottando una scelta di maggiore collegialità nella direzione del partito. Diciamo, facciamo un passo e poi ci saranno. Poi ci sarà. Lei però ha detto che non si candida più. Questo non... Dopo il 2013 ha detto così. Sì, lei non si candida più. Quindi... Io non mi... No, lei non si candida più in Parlamento. Non mi candido più perché per tanti motivi. Perché sono deluso dell'esperienza parlamentare, perché... A parte la lotta contro Berlusconi, che era sacrosanta, abbiamo prodotto pochissimo. Cioè, il Parlamento... E guadagnato tanto, mi faccia il dire Parlamento questa... non si produce leggi. E mi faccia fare questa battuta. Le leggi che si cominciano non arrivano in fondo. Cioè non si fa niente in Parlamento, si sta si lì. Fa poco. Si fa poco. Il Parlamento in effetti produce, legifera poco e quindi... stare altri 5 anni tra commissione e aula a rischiare di combinare poco, ho pensato che oramai ho un'età avanzata e quindi si godrà il vitalizio, rovinare altri 5 anni della mia vita in questa maniera. Si godrà in questa maniera, se lei vuole tenga conto anche che rinuncio. Lei dice si guadagna molto, io rinuncio a guadagnare molto perché faccio una scelta di vita diversa. Però si godrà il vitalizio, l'ha maturato il vitalizio, sì, l'avrà maturato il vitalizio dopo il 5 anni. Il vitalizio è maturato, però tenga conto che non è, per chi ha fatto solo una legislatura è solo il 20% delle cifre originarie. Quindi quanto sarà? È il 20% della parte fissa. E quanto sa, quindi? Quanto credo sarà? Che sia 1.300 euro. Vabbè, una pensione più della media dei pensionati italiani. Più della media dei pensionati. Poco di più, insomma, che sarà sui 1000 euro, 1300 euro. Vabbè, e quindi insomma deluso da questa esperienza parlamentare. C'è stata un'esperienza. Sì, lo confesso. A questo punto penso che... No, poi magari le cose cambiano e magari la nuova legislatura sarà più impegnativa di questa. Anzi, lo spero. Per chi ci resta, spero che il lavoro parlamentare riprenda una sua vitalità, ma sì. Così com'è, guardi, si fanno le uniche leggi che diventano leggi sono i decreti legge, gli altri sono delle cose, poche cose. Senta, ma devo chiedere una cosa che non c'entra niente, senatore Pardi, intanto la ringrazio, ma è una cosa che mi frulla in testa, ho letto da qualche parte ma non so se è vero, ma è vero che suo padre si chiamava Leo Pardi? Sì, mio padre si chiamava Leo Pardi ed era professore di zoologia. Non ci posso credere, il professore. Ed è stato il fondatore in Italia dell'etologia. E infatti, allora, questa è vera, allora, il professor Leo Pardi del comportamento animale. Scusi, però, mi scusi, i suoi bisnonni, ma come, perché hanno chiamato il mio nonno? Perché hanno, suo nonno, mi scusi, perché ha chiamato suo padre Leo Pardi? Leo Pardi. Una lettera di mio nonno al suo fratello in cui gli diceva che stava meditando di chiamare il figlio che stava arrivando Giacomo Leo. E poi ci ha rinunciato. Ha sempre pensato che di essere rimasto fregato perché avrebbe potuto farsi chiamare Giacomo Pardi. Però si è consolato con lo studio del comportamento animale. Nel 1990 ha avuto il premio Balzan per l'etologia. Cioè, vi rendete conto? Il professor Leo Pardi. Certo, il professor Leo Pardi, padre del senatore, era anche un insegnante di zoologia. Professore di zoologia, professor Leo Pardi. Proprio così. Va bene, senatore, io la ringrazio. Buona giornata, ovviamente. Tanti auguri e buona giornata al senatore Pancio Pardi, figlio del professor Leo Pardi, insegnante di zoologia. È tutto vero? Allora, lo stato di Washington, quello dove c'è Seattle, non Washington DC, lo stato del Colorado, hanno approvato due referendum per l'utilizzo a scopo ricreativo. Prima ho detto creativo, ma avete già massacrato via sms al 349-238-6666 a uso ricreativo della marijuana. E di questo vogliamo parlare, delle possibili conseguenze di un dibattito che è fervente anche da anni, da sempre in Italia, tra proibizionisti e antiproibizionisti. Leggevo poco fa il Seattle Times, uno degli articoli più letti. Insomma, lì si scrive che lo stato di Washington è entrato nella storia martedì, diventando il primo stato insieme al Colorado a rigettare le leggi federali, perché invece la legge federale americana prevede stretto invece le maglie nei confronti dell'utilizzo della marijuana. Qui ci sarà anche un problema di come conciliare la legislazione degli stati del Colorado e di Washington con la legislazione invece federale. Comunque, ne vogliamo parlare con un europarlamentare del Partito Democratico, è Pino Arlacchi, che ha diretto per anni l'ufficio che ha sede a Vienna dell'ONU per il contrasto alle droghe, al crimine. Buongiorno onorevole Arlacchi, eccoci qua. Buongiorno. Saluto anche il procuratore generale di Firenze, a un ritorno, Beniamino De Idda. Procuratore, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lei anche a questi microfoni in passato aveva espresso la sua opinione personale su una possibile apertura alla liberalizzazione del mercato delle droghe leggere. Allora, intanto, onorevole Arlacchi, come accogliere questa... E sono davvero entrati nella storia, come il trionfalmente dice il Seattle Times, lo stato di Washington e lo stato del Colorado è davvero un qualcosa di epocale anche per gli Stati Uniti? Per gli Stati Uniti sicuramente sì, non per il resto del mondo occidentale, perché la conclusione di questa vicenda sarà un allineamento degli Stati Uniti, che hanno una legislazione estrema, draconiana, severissima su tutti gli stupefacenti, con gli standard europei di tolleranza e di moderazione nell'approccio a questo problema. Però qui non è tolleranza, cioè qui questa è una legge, cioè lei sta dicendo già in Europa siamo tolleranti, chi si fa uno spinello non va in galera, però qui c'è proprio una legge che prevede, per esempio in Colorado, di poter coltivare fino a 6 piantine in casa e di possedere e andare a comprare anche in punti autorizzati fino a un tot di grammi di marijuana. Sì, ma guardi che la coltivazione in casa di piccolissime quantità per uso personale non viene sanzionata pesantemente da nessuna parte. Negli Stati Uniti di fatto è un mercato che già per quanto riguarda la coltivazione è completamente autosufficiente. Da 20 anni gli Stati Uniti sono autosufficienti, indipendenti dalle importazioni dalla Colombia di marijuana e dal resto del mondo di cannabis, e quindi la legge prende atto di tutto questo. Però ecco, attenzione, è una legge dello Stato che contrasta con le normative federali. In questi casi si arriva poi ad una composizione e ad un compromesso, sì. Ma perché diventi effettiva, ecco, occorre che questa legge passi attraverso un determinato iter che non sarà, questo non sì. sarà semplicissimo. Però che vorrei chiedere anche al procuratore De Idda che ne pensa intanto dello strumento, cioè che la popolazione attraverso un referendum abbia potuto decidere su un argomento comunque così dibattuto e delicato. E, procuratore De Idda, che ne pensa e anche che ne pensa del fatto che sia passata questo referendum? Beh, io credo intanto che la scelta del referendum sia condizionata proprio dal contesto americano, nel senso che in una società puritana probabilmente senza il consenso della base è difficile varare una legge di questo tipo. Certo, il fatto poi che in una società appunto in cui l'etica coincide spesso col diritto si tenti la via della legalizzazione, secondo me è un segnale abbastanza importante che dovrebbe valere anche per noi europei. Noi abbiamo una società molto poco puritana e più compromissoria, dove nessuno punisce la piccola detenzione per uso personale, però si proibisce il mercato e si formula il divieto per legge. Quindi immagino che in America siamo all'inizio di un cammino che credo coinvolgerà presto anche altri stati. Che ne pensa? Noi ne avevamo già parlato l'altra volta quando l'avevo invitata. Che ne pensa del fatto che possano applicare logiche di mercato, come lei aveva detto, come ha ribadito anche oggi, su un tema così come delicato e anche dibattuto, che è quello del mercato degli stupefacenti? Cioè, è possibile applicare le stesse regole che valgono per il libero mercato di una merce qualsiasi? Ma io credo che dobbiamo partire da questa constatazione: ogni volta che si fa un divieto il mercato diventa un traffico, perché è chiaro che si consegna a chi può agire nell'illegalità la gestione del mercato. Quindi il mercato nero, il mercato non per nulla, dicevo l'altra volta, che nelle mani della criminalità probabilmente passa il traffico che viene vietato. Consegnare all'illegalità il mercato significa perderne il controllo, e quindi è inevitabile che ci siano fenomeni in cui chi può agire nell'illegalità riesce a ricavarne grossi profitti. Ho sentito che Pino Arlacchi in una recente intervista ha detto che i profitti sono molto minori di un tempo, e questo non c'è dubbio, ma questo vuol dire anche una maggiore diffusione della merce. Però uno degli argomenti che credo, onorevole Arlacchi, lei ha voluto contrastare anche in un'intervista recente, è che in realtà negli Stati Uniti non è la criminalità organizzata che lucra sul mercato della marijuana, no? Perché ci ha spiegato sono in qualche modo autosufficienti, cioè si producono, ci sono dei produttori di marijuana e poi non importano grandi quantità attraverso i canali della criminalità organizzata, è così? Sì, beh, direi che il mercato americano ha sorpreso tutti, perché si è decriminalizzato da solo, e cioè con questo fatto che negli stati dell'Ovest, a partire dalla California, i produttori indipendenti, legali, hanno cominciato a prodursela da soli, la marijuana, e poi a distribuirla con canali del tutto informali e del tutto puliti a consumatori che quasi sempre sono tutti puliti, ecco, ha sorpreso tutti, perché ha tolto l'ipoteca criminale dal mercato senza alcun intervento di forze esterne. Questo forse negli Stati Uniti, però in generale che la criminalità lucri su una merce che, se fosse liberalizzata per le droghe leggere, non darebbe, toglierebbe soldi, sì, energia alla criminalità, questo è un argomento gli antiproibizionisti portano. Quello che vorrei dire al procuratore è questo: che quando ci sono delle cosiddette proibizioni o delle leggi, ci sono delle ragioni per farlo, perché è chiaro che se noi decriminalizzassimo le leggi è ovvio che non ci sarebbero dei mercati criminali, ma le leggi hanno la loro ratio. Se noi decriminalizzassimo, togliessimo per esempio il più grande mercato illecito mondiale oggi, non è la droga, è la contraffazione. Se noi togliessimo tutte le leggi che proteggono i marchi, non avremmo più il mercato della contraffazione. L'altro, un altro grandissimo mercato, il contrabbando, che è interamente prodotto dalle leggi. Se noi togliessimo ogni normativa che protegge determinati marchi o determinati prodotti o protegge la salute dei consumatori nel caso delle sigarette, elimineremmo completamente il contrabbando. Ma non credo che la soluzione, il procuratore De Ida, non credo che lei da procuratore generale tra l'altro abbia... No, l'argomento dico... Voglia abbattere le leggi come... Le leggi che proibiscono le droghe pesanti, sì, sono state costruite nel tempo per ragioni di civiltà e di progresso. Tutte le normative, le convenzioni internazionali sui narcotici, che sono tre, sono state istituite per proteggere i consumatori, sì, soprattutto di oppiacei, quindi di morfina e di eroina, dalle conseguenze devastanti che hanno queste sostanze quando vengono consumate sulla salute. Questo sì, però il procuratore credo che si riferisse alle droghe cosiddette leggere, anche se poi qui c'è un grande dibattito, sì, se si possano fare differenze dal punto di vista proprio anche delle sostanze. Le differenze ci sono, io sono favorevole. Lei è favorevole a dividere Arlacchi, però sentiamo procuratore De Ida, replichi a questo su questo l'onorevole Arlacchi, che poi mi devo fermare un attimo. No, voglio dire che sì, le società proibiscono con la legge, o almeno dovrebbero proibire, solo che è intollerabile per la convivenza, ma se noi riusciamo a convivere con un mercato nero della droga, evidentemente lo strumento della proibizione non basta. Quello che notava Arlacchi, che a me pare molto interessante, cioè che negli Stati Uniti si decriminalizza da solo l'illegalità, è il segno che ci sono spinte che forse sarebbe meglio controllare, aiutare. Nessuno dubita che la droga sia un male, il problema non è questo, il problema è con quali strumenti. Se noi ci limitiamo al divieto perdiamo il controllo dei fenomeni, mentre invece bisogna agire su altre scale, che sono quelle dell'educazione, della prevenzione. Del resto noi abbiamo una cosa che è la campagna per il fumo, che ci insegna come si può intervenire su un fenomeno che era mondiale, che era ancora più difficile. Sì, lei dice puntare più su quello piuttosto che sulla proibizione, che è una cosa che storicamente non ha portato benefici. Però, onorevole Arlacchi, il fatto, e questo è il grande dibattito che avviene dal proibizionismo degli anni insomma, della Chicago di Al Capone, insomma, che proibire una cosa, una qualsiasi sostanza, anche se una sostanza nociva, ha portato storicamente a trovare degli strumenti anche da parte degli esseri umani quasi di invogliare allora nel consumo di quella stessa sostanza. Questo è un argomento valido, si scontra di fronte al fatto che no, lo Stato però deve prevenire anche i costi sociali dal possibile utilizzo di queste sostanze. No, volevo dire, io sono d'accordo che lo strumento della semplice proibizione non funziona, l'ho sempre detto ed è abbastanza, direi, ovvio che proibire e basta. Bisogna vedere il discorso del sanzionamento. Perché certe sostanze vanno proibite nel modo più assoluto perché hanno degli effetti devastanti sulla salute, sì. Punto, e sono d'accordo. Poi bisogna vedere il grado di danno, e qui c'è il discorso delle droghe cosiddette leggere. Io sono favorevole a un regime di tolleranza per quanto riguarda le droghe leggere, per quanto riguarda i consumi di tutte le sostanze, perché il danno poi che deriva è soprattutto alla salute personale, quindi va messo in una categoria diversa. Ma il problema è che questo già esiste. La legislazione europea è una legislazione modello da questo punto di vista. Dice tollerante, perché se uno si fa uno spinello non succede niente. Noi puniamo con grande severità il traffico e anche la produzione. E poi di fatto non sanzioniamo pesantemente, in certi casi non sanzioniamo quasi per niente il consumo. Questo non esiste negli Stati Uniti e non esiste in gran parte dei paesi del terzo mondo. Gli Stati Uniti da questo punto di vista sono un paese arretratissimo, sì. Sono rimasti 30 anni indietro rispetto all'Europa e ora si stanno adeguando togliendo di fatto la sanzione. Quindi lei dice che queste spinte magari di stati singoli degli Stati Uniti sono anche per andare contro una legislazione federale molto rigorosa e molto dura. Lì gli Stati Uniti hanno proibito, è tutto proibito dal punto di vista dei consumi di queste sostanze. Dentro anche con lo spinello. Mi faccia sentire Luca da Milano, un ascoltatore, ci ha chiamato l'800 24 0024. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamavo per intervenire su questa cosa, no? E mi ponevo una domanda, intanto che vi sentivo, no? D'accordo che in Italia la situazione è quella che si dice, va bene, noi non puniamo tanto il consumo, ma puniamo, diciamo, il commercio e la produzione, e fin qua è abbastanza un fatto logico, no? Però mi sembra un po' di sentire come la storia della prostituzione, no? Noi la tolleriamo, non la puniamo, sono tutti contro. Io dico, ma avete provato a considerare il fatto che legalizzando questo tipo di commercio stile Olanda, con una legislazione magari ferrea, lo Stato potrebbe anche incassare un sacco di soldi, primo, e secondo, si toglie tutto questo giro di soldi contanti alla criminalità organizzata. Sì, questo è il tema di cui stiamo dibattendo. Il procuratore De Idda segue l'ascoltatore su questo punto? Immagino di sì. No, mi pare intanto questo, che la lotta alla droga in termini economici costi. Intanto, noi abbiamo una legislazione, io sono d'accordo con Arlacchi su questo, abbiamo una legislazione che tollerante sul consumo, proibitiva invece sul traffico. È una legislazione contraddittoria, perché io non commetto reati, non sono un criminale, mentre consumo, faccio un uso modesto personale della droga, ma chi me la vende è un criminale. Ecco, io trovo che c'è una contraddizione di fondo in una legislazione così. E poi i costi. Ho letto ieri che è stato calcolato il 750.000 il numero di persone arrestate per possesso illegale di droga. 750.000 sembra significa $1 miliardo all'anno. Sì. E io ho l'impressione che tutto questo non valga la pena, ecco, non valga. Ripeto, in una società dove il peccato coincide col reato, evidentemente tutto questo è incomprensibile. Onorevole Arlacchi, per concludere, è un po' da stato etico il fatto che uno stato decida, per esempio, di non fare tasse su un qualcosa che è discutibile come la droga? Oppure, perché l'ascoltatore dice, si potrebbero anche fare dei gran guadagni legalizzando tutto, magari mettendo i punti vendita eccetera, mettendo una tassa su questo. No, l'argomentazione questa è molto debole, perché gli stati innanzitutto tassano tutte le transazioni commerciali lecite indifferentemente, quindi poi i profitti di una tassazione del genere non sarebbero tali, stiamo parlando di piccole cifre, quando parliamo dei consumatori di droghe pesanti, che in questo caso sarebbero, ecco, parliamo di cifre assolutamente piccole, non paragonabili a quelli i profitti che lo Stato incavera sulla tassazione, per esempio, dell'alcol o del fumo, che sono sostanze dannose. Io, guardi, su questo discorso sono d'accordo, si fa spesso il paragone tra fumo e alcol da una parte e droghe sanzionate dall'altro. Guardi che per quanto riguarda il fumo e l'alcol siamo arrivati al limite della proibizione legale. Nel senso che queste sostanze, ormai, soprattutto il fumo, è sanzionato socialmente in modo talmente forte che siamo a un passo dalla proibizione legale. Poi cosa succede? Che ci si accorge che strategie di non proibizione legale funzionano, perché dissuadono i consumatori, e infatti i consumi di fumo legale e di alcol sono in diminuzione in tutti i paesi sviluppati. Questo sta avvenendo per le droghe pesanti, però attenzione, e anche per le droghe leggere, è questo che la gente non sa. Però l'elemento informativo che manca è questo. Però si fermi qui, perché altrimenti sforo, ma il tema è molto interessante, torneremo a trattarlo, ve lo prometto. Intanto ci ritroviamo lunedì alle 6:30.